a favore della classe appunto da cui lui proveniva, cioè gli emigranti, la gente normale. Io credo che Fiorello sapesse parlare a tutti e sapesse comunicare la sua mancanza di secondi interessi. E questa cosa era talmente straripante, perché c'è il fatto di essere una forza della natura. Fiorello era una forza della natura, come non tutti sono e sanno essere. Nello stesso anno in cui La Guardia viene eletto sindaco di New York, Roosevelt viene eletto presidente degli Stati Uniti. E anche se si trovano su schieramenti politici diversi, i due fanno molte cose insieme. Con un accordo tipicamente politico che ha poco a che vedere con gli schieramenti. E questo nonostante le loro origini fossero diametralmente opposte. Roosevelt è un aristocratico, mentre La Guardia è un figlio di immigrati italiani senza fortuna. Nell'America dei pionieri, Fiorello La Guardia si è fatto dal nulla. Inviato di un quotidiano a 16 anni e 22 anni, addetto consolare degli Stati Uniti a Fiume, La Guardia conosce 7 lingue: l'italiano, l'inglese, il francese, il tedesco, l'ungherese, il croato e l'iddish. Come avvocato e deputato sindaco della più moderna e importante città del mondo, è sempre dalla parte della gente e degli emigrati. Ma quali sono le sue origini? Fiorello La Guardia nasce a New York l'11 dicembre 1882 da Achille La Guardia, suonatore di corno di Foggia, e Irene Luzzatto Cohen, triestina di famiglia ebraica. È il secondogenito di 3 figli, Gemma e Richard. Nel 1892 La Guardia segue il padre, capo di una banda militare dell'esercito, a Prescott, nel deserto dell'Arizona. È qui, durante la sua adolescenza, che si accorge di non essere come gli altri. Un giorno in paese arriva un suonatore d'organetto italiano con una scimmietta. I compagni di scuola di La Guardia cominciano a deriderlo e a insultarlo. Lo chiamano Dago, il termine spregiativo usato in America per gli immigranti spagnoli e italiani. La Guardia risolve la cosa a modo suo, con una furibonda scazzottata con i suoi coetanei. Ora però ha scoperto che cos'è il razzismo. Ha scoperto che in America non sono solo gli indiani a essere diversi. Anche i bianchi non sono tutti uguali. 25 aprile 1898. Gli Stati Uniti intimano alla Spagna di concedere immediatamente l'indipendenza a Cuba. È la guerra ispano-americana che sconvolge la vita della famiglia La Guardia. Il padre deve seguire l'undicesimo reggimento nel Golfo del Messico. Il giovane Fiorello, trasferitosi con il resto della famiglia a St. Louis, riesce a farsi assumere a 16 anni come inviato di guerra dal quotidiano Post-Dispatch, diretto da Joseph Pulitzer, che diventerà uno dei più temuti e importanti editori degli Stati Uniti. In una delle sue corrispondenze, Fiorello riferisce di migliaia di morti. Oltre ai combattimenti, le cause sono il colera, la febbre gialla e l'avvelenamento dovuto alla carne avariata distribuita alle truppe da speculatori senza scrupoli. Anche suo padre è rimasto avvelenato. Quando lo raggiunge sul fronte, La Guardia lo trova gravemente ammalato. Lo riporta allora a casa, in Arizona, e da lì poi in Italia, a Trieste, dove morirà qualche anno dopo. Intanto Fiorello La Guardia viene nominato addetto consolare degli Stati Uniti a Fiume, in Istria. Nel 1904 Fiorello La Guardia va in rotta di collisione con il governo austro-ungarico. Un carico di emigranti slavi in partenza per gli Stati Uniti viene stivato sulla nave Pannonia per 48 ore, dopo aver fatto da comparsa in una falsa partenza allestita per divertire l'arciduchessa Maria Giuseppina d'Asburgo. La Guardia va su tutte le furie. È il 1908. Tornato a New York, La Guardia lavora come interprete a Ellis Island. L'8 giugno assiste impotente quando da un comodo piroscafo sbarca Raffaele Palizzolo, ex deputato del Parlamento italiano e boss della mafia siciliana. Accolto trionfalmente dagli amici siciliani di New York, Palizzolo si ritiene perseguitato dalla giustizia italiana, che lo accusa di essere il mandante dell'omicidio del marchese Emanuele Notar Bartolo, già direttore del Banco di Sicilia. È il primo omicidio eccellente di mafia documentato nella storia. A indagare su di lui è Gio Petrosino. Nel 1909 verrà ucciso in un agguato mafioso a Palermo. Uomini come Petrosino, dice La Guardia, riscattano l'onore degli italiani d'America. Mentre lavora come traduttore per il Dipartimento di Immigrazione, La Guardia studia duro di notte per diventare avvocato. E studia alla facoltà di legge dell'Università Pubblica di New York. Nel 19 si laurea, trasforma il suo secondo nome, Enrico, in Harry.

Come presidente dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'assistenza ai paesi devastati dalla guerra, la Guardia elargisce anche 400 milioni di lire a San Giovanni Rotondo per la costruzione della Casa Sollievo della Sofferenza di Padre Pio. Nel 1945, dopo 3 elezioni vittoriose e 12 anni in carica, Fiorello La Guardia è al vertice della popolarità. Ha 62 anni, ma a sorpresa annuncia che non ripresenterà la sua candidatura. Fiorello La Guardia muore alle 8.06 di sabato 20 settembre 1947 nella sua casa di Riverdale per un tumore al pancreas. L'intera città di New York piange il suo sindaco. Al suo funerale partecipano decine di migliaia di persone. Alla Guardia vengono intitolate strade, parchi, scuole, fondazioni, ponti, l'omonimo aeroporto del Queens, decine di biografie, francobolli, figurine, canzoni. L'eredità di Fiorello è enorme. Penso che sia stato il miglior sindaco che New York abbia mai avuto. Tutti i sindaci che sono venuti dopo di lui sanno chi è. Ed essendo il sindaco del popolo, perché metteva d'accordo diversi gruppi etnici, fu anche il modello per i successori. Per questo fu un grande sindaco e un grande politico. Incorruttibile. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix 24 sul sito www.radio24.it.